A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La suggestione c'è, ma parlare di campionato riaperto mi sembra al momento ancora eccessivo. Se diamo un'occhiata al calendario, mi pare che 9 punti su 15 siano alla portata di un Inter in calando, questo sì, ma non è poi nemmeno detto che il Milan a sua volta ne faccia 15 su 15. Il calendario vede l'Inter impegnata in casa sabato contro la Lazio in anticipo, poi in trasferta a Verona, poi in casa con il Siena, poi a Cagliari e poi ricevere l'Atalanta l'ultima giornata. Il Milan deve giocare 3 trasferte a Catania, a Udine e a Firenze e ricevere in casa Juventus e Roma. Dei due calendari io sceglierei forse quello dell'Inter, non quello del Milan, che è già davanti, quindi mi sembra ancora un po' prematuro. Certo, ripeto, la suggestione c'è. I personaggi della domenica, bah, certamente Ibrahimovic, perché mi pare non ci siano molti paragoni possibili tra l'Ibrahimovic di Coppa, che ha cercato di guidare la rimonta dell'Inter contro la Sampdoria, e quello come minimo svogliato, didascalico direi, di ieri, no? Le energie principali mi sembra le abbia investite nello spiegare ai compagni dopo dove avrebbero dovuto dargli la palla. La marcia sicura del Milan, sia pure con agevolazioni che ricordano quelle di inizio stagione, agevolazioni al dischetto intendo dire, la Juventus che continua a stentare, il rientro di Cristiano Zanetti l'ha un po' tonificata in mezzo al campo oggettivamente, a parte che ha firmato lui il pareggio, lo stesso Cristiano Zanetti dicendo pubblicamente che certe uscite estemporanee della società certamente hanno complicato il cammino della squadra, mi pare abbia messo a fuoco la situazione. E poi quel gol di tacco magnifico di Bianchi, il centravanti del Torino, la follia di Langella sabato, un'espulsione per un fallo di una violenza inaudita contro un giocatore dell'Udinese, mi auguro una lunga squalifica. Marilungo, la novità di giornata, il centravanti della Sampdoria, che ha segnato 2 gol di testa al debutto in Serie A, segno che forse non è necessario essere all'estero per provare a lanciare i ragazzi e avere delle risposte positive. Sampdoria-Cagliari tra l'altro è stata la partita di gran lunga migliore dal punto di vista non solo dei gol ma delle emozioni, dal punto di vista qualitativo, dell'intensità sotto quel diluvio di Marassi. E poi 2 storie straniere, una è la tripletta di Raul a Siviglia in rimonta, il Real grazie al suo capitano è tornata a -4 da Barcellona alla vigilia di Real Barcellona sabato, e l'esonero di Klinsmann, notizia appena arrivata da Monaco. Il Bayern Monaco, terzo in campionato a 3 punti dal Wolfsburg, ha esonerato oggi l'allenatore Jürgen Klinsmann. Poi c'è un'altra storia, che è una storia minore, ma che avrà forse un lieto fine, avrebbe potuto essere davvero drammatica. È la storia di un attaccante, di un centravanti della Biellese. La Biellese ieri ha vinto 1-0 a Sarzana e con questa vittoria ha praticamente centrato la promozione in Lega Pro, quella che una volta era la C2. Si giocava sotto un diluvio universale. Ferretti, la Biellese ha vinto 1-0, Ferretti ha firmato il gol, Ferretti 24 anni, ha firmato il gol decisivo nel primo tempo, a poco dalla fine, in un contrasto abbastanza duro, ma del tutto involontario, ricostruito in base alle testimonianze, ha picchiato violentemente la testa contro il ginocchio di un avversario ed è rimasto a terra. L'arbitro, dato che era una battaglia nell'acqua, non ha ritenuto di dover fermare il gioco immediatamente. Il giocatore stesso si è trascinato sulle sue gambe fuori dal campo, è stato medicato, pareva in condizioni normali, è rientrato, ha giocato gli ultimi minuti della partita, ha partecipato ai festeggiamenti dei compagni e dei tifosi e poi è piombato a terra in preda a una crisi epilettica. È stato veramente salvato per miracolo. I soccorsi hanno funzionato splendidamente, mi ha raccontato da poco il medico sociale della Biellese, dottor Salvatore Russo. Sono stati molto bravi in neurochirurgia a Sarzana, subito, poi gli è stata fatta un attacco alla spezia, l'elicottero causa il maltempo non ha potuto alzarsi per andare a Genova perché l'intervento operatorio era necessario e urgente. Quando finalmente il giocatore è arrivato a Genova tutto era pronto, in sala operatoria l'intervento è riuscito, la frattura all'osso parietale è stata ridotta o è stata rimossa, non so bene come si dica, la prognosi rimane riservata perché il giocatore è ancora in coma farmacologico, ma pare che stamane ci sia qualche segno incoraggiante, anche se per almeno 48 ore la prognosi rimane riservata. Noi spesso, sia nel grande che nel piccolo calcio, ci infuriamo quando qualche compagno di squadra, qualche avversario mette fuori la palla perché c'è un giocatore a terra. La regola è che l'arbitro deve intervenire, magari non sempre l'arbitro ha la percezione esatta della gravità dell'accaduto, e quindi forse è meglio una palla fuori in più ogni tanto che non un giocatore in coma, questo senza minimamente voler colpevolizzare nessuno. Torniamo al calcio di copertina e al commento di Donadoni alla sua prima sospirata vittoria alla guida del Napoli. Chiaro che è emozionante vedere un pubblico di questo tipo, una platea così contro una grande squadra, contro la prima della classe del campionato italiano, non può che emozionare, anche se, passatemi il concetto, sono quelle partite che mi fanno anche un po' arrabbiare onestamente, nel senso che è chiaro che trovare gli stimoli contro l'Inter non è così complicato e difficile, però questo atteggiamento dobbiamo imparare ad averlo sempre, indipendentemente dal risultato, che poi può essere positivo o no, però questo è l'atteggiamento che ci vuole. E questi ragazzi devono capirlo in fretta, perché solo così si può continuare a fare un cammino importante e crescere. L'impresa di giornata indubbiamente l'ha firmata Donadoni. Certo, non era la migliore Inter, anzi forse se non la peggiore di stagione certamente ci somigliava, un Inter abulica, spenta, tra l'altro contro una squadra, con tutto rispetto per il Napoli, che di tiri in porta mi pare ne abbia fatto uno e ha avuto il merito di azzeccarlo al meglio con quel destro d'incontro di Zalaieta, più istintivo forse che cercato. Comunque è una sconfitta che indubbiamente pesa, ripeto, non so quante conseguenze potrà avere sul campionato, ma sul morale e su quel minimo di suspense che poi bene non fa quando sei in testa dall'inizio, qualche conseguenza potrebbe averla. Sentiamo il commento di Mourinho. Mi sembra partita tipica di 0-0. L'Inter in primo tempo ha controllato la partita con un possesso palla che non fa paura a nessuno, però è possesso palla, e con possesso palla si può controllare la partita. In secondo tempo diverso, abbiamo giocato troppo bassi, senza fare paura abbiamo perso il controllo della partita. Il Napoli ha fatto un controllo difensivo della partita, non ha avuto nessuna possibilità, non ha avuto nessuna palla gol, non ha fatto tanto per segnare, ha segnato un bel gol, e se qualcuno meritava questa fortuna per vincere la partita era il Napoli sicuramente, non noi. Però mi sembra che è partita tipica di 0-0. Però la realtà sono i numeri, loro hanno segnato e hanno vinto. E ripeto, se qualcuno meritava un po' di fortuna per vincere la partita era il Napoli, perché ha messo più nella partita, più intensità, più cattiveria, più ambizione. Cosa pensa, domanda Stefano da Udine, nel finale nervoso di Chievo-Udinese? Solo tensione per la partita o qualcuno si aspettava un pareggio già scritto? Beh, Stefano, io l'ho vista, se qualcuno si aspettava un pareggio scritto non ha capito niente, evidentemente, perché non solo il Chievo nel secondo tempo, prima e dopo aver raggiunto il pareggio, ha sempre spinto, ha sempre cercato di ottenere il risultato pieno, ma anche l'Udinese ancora nel finale non ha mai smesso di contrattaccare e anzi, proprio negli ultimi minuti sono state occasioni numerose da una parte e dall'altra. No, io penso che il finale nervoso sia dovuto evidentemente al fatto che si è creato nervosismo e si è creata tensione. Pare ci fosse o fosse rimasto un giocatore a terra durante o poco prima dell'azione decisiva, ma insomma sono quelle cose che succedono. Quello che non può succedere è un'entrata criminale come quella di Langella a metà campo nel finale, ripeto, mi auguro una squalifica come si deve. Il commento adesso a Milan-Palermo da parte di Carlo Ancelotti. La partita è iniziata bene per noi, l'abbiamo iniziata con col piglio giusto, con aggressività, con ritmo, anche se il Palermo è una squadra che nella metà campo tua ti crea qualche difficoltà perché fraseggia molto, però direi che il primo tempo è stato ben fatto, giocato buone ottime trame, abbiamo controllato bene il fraseggio nella nostra metà campo del Palermo, tenendo i centrocampisti stretti, c'è stata una collaborazione da parte di tutti, gli attaccanti hanno messo pressione sui difensori costringendoli tante volte al lancio. Kaká è tornato nella maniera giusta dopo due mesi di assenza, e questo, le prestazioni di Kaká in questo momento fanno capire quanto sia difficile farne a meno. Kaká, indubbiamente uomo chiave del Milan ieri. Insomma, ieri si è visto che quando Kaká sta bene la sua incidenza sulla squadra rimane quella di un tempo. Il Palermo ha dichiarato sin da ieri il silenzio stampa. Zamparini stamane su Radio Anch'io Sport, Radio 1, ha contestato l'arbitraggio e certe decisioni molto discutibili. Il Palermo non ha la forza tecnica per giocare un secondo tempo in 10 e subire due rigori opinabili, ma soprattutto, ha detto Zamparini, avere questa anomalia, cioè di un presidente del Consiglio che è anche presidente di club, crea un appiattimento di chi si vuol dimostrare prono al potere. Noi viviamo questa situazione anomala non certo per colpa di Berlusconi, che io stimo moltissimo, non chiedo favori, però il problema esiste. E mi dispiace molto, perché la stampa sportiva dovrebbe essere l'unica critica verso un arbitraggio probabilmente da censurare, e se invece c'è appiattimento vuol dire che non c'è opposizione. Non sono un matto, sono un ottimo imprenditore, importante è autodefinirsi, di 68 anni, non più un ragazzino, so ponderare bene quello che dico, ma sono uno fuori dalla mischia che dice quello che pensa. Un'altra, diciamo, accusa di prostituzione intellettuale, no, mi pare, per dirla con le parole di Mourinho, nei confronti della stampa sportiva in questo caso, anche se c'è un riferimento che può magari autorizzare ad andare oltre la stampa sportiva. Primo intervento di oggi, Claudio Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Io volevo tornare su Balotelli. So che fuori tema è lunedì, sì, c'è altro da parlare, però sono riuscito a prendere la linea solo oggi. Nulla, per dire questo, non mi scandalizzo tanto dei cori allo stadio, ma onestamente mi sono scandalizzato e indignato per gli interventi degli ascoltatori, che li trovo veramente, veramente fuori posto. Il discorso di dire io non sono razzista, però Balotelli insomma un po' se l'è andata a cercare. Io lo trovo veramente, veramente una cosa che deve indignare, questa cosa qui. E purtroppo ne ho sentiti anche tanti. Sì, qualcuno più del previsto, anche per me, anche se poi sono andati, mi pare, in calando durante la settimana. Io credo che il tempo in questi casi sia galantuomo, no, perché si è visto ieri sera che Balotelli non ha fatto nulla, nemmeno ieri, per non indispettire il pubblico napoletano, forse anche gli avversari. A gioco lungo ci è riuscito. È ovvio che con la sua fragilità nervosa gli avversari ne approfittano per provocarlo, però mi pare che anche ieri qualche intemperanza ci sia stata. Ma il confine, per l'appunto, è quello che dice lei, e cioè non ci sono se, non ci sono ma, non ci sono però. Ieri il pubblico di Napoli lo ha giustamente fischiato, come intanto si ha il diritto di fischiare un avversario, a prescindere, anche se non è elegantissimo, ma ormai fa parte di una prassi consolidata non soltanto in Italia. Ma si è fermato lì, senza andare oltre, e mi pare che quello, no, sia la linea di demarcazione tra quello che è lecito fare in uno stadio e quello che non è lecito per nessuna ragione al mondo. Da Napoli ha chiamato Antonio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho visto la partita ieri, e anche se sono tifosissimo del Napoli, sinceramente in questo momento Napoli è una squadra proprio mediocre. Secondo me è la peggior squadra del campionato. No. Beh sì, cioè in questo momento. No, ma infatti la cosa che poi, diciamo, sorprende è come l'Inter, diciamo, 7 punti di vantaggio sulla seconda, diciamo, che ieri ha perso contro una squadra mediocre, diciamo. Questa cosa qua mi fa capire, diciamo, in un certo senso anche lo stato del calcio italiano, no? Cioè che a parte che erano ridicoli in mezzo a campo, gente come Verà, Figo, cioè io non so, con tanti calciatori in Italia, giovani, perché, come dire, si ostina a far giocare certe persone. E mi fa piacere invece, diciamo, la prestazione di Balotelli, che secondo me, diciamo, è il vero talento italiano, diciamo. Veramente se l'Inter lo fa giocare, se noi non lo bruciamo, secondo me Balotelli è l'unica nota positiva di ieri sera, cioè tra Napoli e Inter. Tecnicamente Balotelli non si discute, aver giocato una eccellente partita a Torino in quelle condizioni ed essere stato ieri sera l'unico uomo pericoloso, davvero pericoloso dell'Inter e sempre in partita fino alla fine, nonostante, ripeto, tutto quello che intorno gli è accaduto allora e poi in questa settimana, significa che il giocatore c'è e poi basta avere gli occhi per vedere le qualità di Balotelli. Il problema, come sappiamo, è un altro. Stamane è stata inaugurata la nuova sede dell'Inter, inaugurata ovviamente dal presidente Moratti, che ha risposto a Gagliani, che aveva ricordato il gol di mano di Adriano nel derby, e Moratti ha risposto: penso che dovrò prima contare i rigori del Milan e poi vedremo. Dopodiché ha precisato: i rigori del Milan sono 12 e sinceramente mi sembrano tanti. David, no, tocca credo a Giampaolo da Verona. Sì, dica Giampaolo. Sì, pronto? Buongiorno. Una domanda, e premetto che non sono tifoso del Chievo. Cosa ne pensa dell'arbitraggio di Chievo Udinese di sabato? Mi sembrano qualche decisione un po' perplessa, insomma, da lasciare perplessi tutti noi. Grazie. Sì, perplessi sì, ho visto di peggio. Io credo che almeno il Chievo ha reclamato in 2 o 3 occasioni un calcio di rigore, credo che almeno in una ci stesse. Sinceramente gli errori peggiori dal punto di vista arbitrale li ho visti ieri a Reggio Calabria e ancora una volta li ho visti da parte di Saccani, che era reduce da una stagione strepitosa, da una stagione comunque molto ma molto positiva lo scorso anno, e quest'anno veramente ne ha indovinate poche. Credo che l'errore di non concedere quel rigore su Del Piero per quell'entrata di Cirillo sia un errore grave, insomma, perché è una valutazione facilissima, lui tra l'altro è molto vicino. Il fatto che alla primissima occasione nel secondo tempo, dopo aver commesso quell'errore grave, scatti la compensazione per un falletto, già esagerare, su Iaquinta in area, insomma, significa proprio che quest'anno quell'arbitro non c'è e chissà se si ritrova, insomma, perché era sempre stato un arbitro discreto in linea di galleggiamento, ha avuto questa grande fiammata di rendimento lo scorso anno che l'aveva proiettato ad alto livello e quest'anno, se non siamo vicini al disastro, insomma, non manca davvero molto. Davide ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, mi sentite? Certo, forte e chiaro, dica. Meno male. Allora, volevo dire, se la Lazio continua la sua serie positiva di sconfitte, io sinceramente rispetto allo scorso anno incomincio a rimpiangere anche la scorsa stagione. Cioè, io quest'anno vedo che basta soltanto una vittoria sporadica per giustificare e per mettere tutto quanto a tacere. Sinceramente io quando ascolto il presidente della Lazio, cioè, mi dà una brutta sensazione che, cioè, sono soltanto parole che a me sinceramente non riescono a convincermi. O non capisco male io, oppure si spiega male il nostro signor presidente. Ecco, cioè, nessuno ne parla, tutto quanto finisce con 2 parole. Si parla di stadio, si parla di negozi, si parla di tutte di ville, di treni e di ferrovie. Sinceramente, questa squadra, cioè, meritava la Serie B, tranquillamente. E nessuno ne parla. Ecco, volevo sapere soltanto se lei era del mio stesso avviso. No, oppure. No. No, guardi Davide, esattamente al contrario, questa squadra meritava la B, dunque sto guardando la classifica, ha 47 punti e quindi è 18 punti sopra la zona B del Bologna. Allora, o ha rubato 18 punti o gliel'hanno regalati, oppure forse è una squadra che ha fatto il suo campionato decoroso con molti, molti alti e bassi, ma soprattutto è andato in finale di Coppa Italia. Io credo che tra la Lazio, che ha la possibilità di giocarsi appunto in casa oltretutto all'Olimpico una finale di Coppa, e squadre che la precedono, se alla fine la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia rispetto a molte squadre che la precedono, anche a chi arriverà secondo, terzo e magari quarto, la Lazio abbia fatto meglio in assoluto, poi tutto è opinabile come sempre. Stefano, Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, un paio di domande semplici. Cosa ne pensa di questa Fiorentina dai due polsi? Perché io ho visto la partita sia di Udine che con la Roma, sembravano due squadre completamente differenti. E poi volevo sapere, lei ha già scritto un libro su Brera? Perché se non l'ha scritto, lo scriva, perché quello su Rocco me lo sono divorato su una panchina in riva all'Arno in un pomeriggio. ed era veramente eccezionale. Stefano, grazie a lei, cosa vuole che le dica? Grazie. Una panchina in riva all'anno non è male come scenario per una lettura. Non ho detto una buona lettura perché l'ha detta, questo l'ha già detto lei. No, Brera è un po' più impegnativo. Cioè Rocco è un personaggio. È stato un personaggio di grande levatura, di grande spessore, ma insomma un personaggio più facile, diciamo, da rappresentare. Brera è un personaggio molto, ma molto più articolato, però prima o poi potrebbe essere una idea, come diceva Pesaola, perché no? Grazie. Lo sbalzo di rendimento notevolissimo quest'anno nella Fiorentina. Io le dirò con molta sincerità che non me ne importa nulla, ma tra Genoa e Fiorentina preferirei che ci andasse il Genoa in Champions League, sinceramente, perché mi pare l'abbia meritato di più nel corso dell'anno. Così come l'anno scorso invece tifavo per la Fiorentina contro il Milan, tifavo, ripeto, sempre con 10.000 virgolette, perché mi sembrava che la Fiorentina dello scorso anno meritasse questa partecipazione più di quanto non la meritasse il Milan. Era andata così. Quest'anno mi pare che la meriti di più il Genoa, perché credo che la Fiorentina come rendimento, come qualità, abbia tutto sommato più punti di quelli che merita, a proposito del discorso razziale di prima, ma ripeto, lasciano il tempo che trovano. Claudio, Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dici. Io, al contrario di lei, nonostante sia genuano, ho tanta paura che ci andrà la Fiorentina, però il mio intervento era relativo a un'altra cosa. Vado un po' fuori tema. Io ieri ho visto la finale del campionato paulista su Sport Italia, Santos Corinthians, vinta 3-1 dal Corinthians, e ho visto un giocatore che è veramente l'unico fenomeno degli ultimi 15 anni di calcio, che è Ronaldo. Nonostante un'inadeguatezza fisica clamorosa, perché comunque è a peso e tutto quanto, magari anche lento e tutto, però fa sempre la differenza. E se avete occasione di riguardare la partita, o solo che vedere il secondo gol che ha fatto, è sempre, sempre, sempre tanta roba. Ed è un peccato non vederlo più in Italia. Tanta roba. Claudio, grazie. No, non lo cercherò adesso dopo questo suo racconto così appassionato. Cercherò di trovarlo questo gol, o comunque questo. Qualche pezzetto di partita. Sono d'accordo con lei, Ronaldo, quando si elencano i campioni degli ultimi anni, si tende delle ultime stagioni, degli ultimi 15-20 anni, si tende effettivamente a dimenticare questo, che come qualità in assoluto e come rendimento in assoluto, perlomeno per una, due o forse anche tre, quattro stagioni è stato il numero uno. Come potrebbe avviarsi, anzi si è già avviato a diventarlo Messi in questo momento. Lì parliamo proprio di vertici assoluti. Poi sul resto, per carità, i grandi giocatori non mancano in questa fase storica del calcio. Francesco ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono per l'Inter. Volevo dire, ho visto un Inter tatticamente messa proprio male ieri sera. Cioè, io non me ne intendo, per l'amor di Dio, però mi sembrava cioè bassa, sempre giù, sempre bassa, con dei centrocampisti lenti, ma Vieira di fronte a un Napoli velocissimo. Cioè, mi è sembrata una formazione abbastanza bizzarra per giocare una partita del genere. Anche a me, Francesco, ma sa che quando ci sono i mezzi profeti bisogna andarci pianino a esprimere perplessità sul loro conto. Sto parlando di Mourinho. Però ieri sera ho visto proprio un Inter, cioè io non capisco, Vieira, figo, in una partita del genere. Poi un Inter, quando l'Inter si abbassa in quel modo lì, fa la stessa fine ha fatto con Manchester, cioè prima o poi la bucano, si dice a Firenze, no? Era nell'area e gol ed è arrivato, non c'era poco da fare. Non, sì. non c'è reazione perché sei sempre in area tua, è incredibile, insomma, voglio dire. Non lo so, tatticamente mi è sembrata davvero discutibile, per quanto ci possa dire io, sono naturalmente... Non me ne intendo, però mi è sembrato proprio... No, che non se ne intenda mi sembra abbastanza relativo, Francesco. Io ne sento tante di quella gente esprimersi con un sacco di sicumera e non avere una minima idea, invece che lei invece mi pare abbia, no? Al contrario appunto di questi. Però insomma teniamo anche conto che stiamo andando verso fine stagione, che l'Inter, insomma, che chi ha tirato tutto l'anno a questo punto la flessione più o meno ce l'ha, a meno che non l'abbia già avuta prima, C'erano anche, va bene che si giocava di sera, ma insomma qua al nord fa freddo e a Napoli ieri c'era già un pochino un'altra temperatura. Sono sempre i primi caldi primaverili quelli che decidono i campionati. Questa è storia scritta a proposito di Brera, che era stato il primo a codificare queste teorie, tutt'altro che astruse, perché sono estremamente reali invece. I caldi veri non sono ancora nemmeno venuti fuori, anzi, cioè, qua al nord stiamo battendo i denti e i coperchi, come si dice da qualche parte. E dato che di giornate ne mancano ancora 5, il vero caldo dovesse venire fuori, potrebbe, dal punto di vista delle sorprese, potrebbe crearne anche altre. Sentiamo un ascoltatore ancora, poi facciamo un intervallo dei mercati. Da Pavia ha chiamato Roberto, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Complimenti. Io volevo solo dire una cosa velocissima. Ho sentito dei disordini, io sono sportivo di calcio più che un tifoso, ho sentito dei disordini di Fiorentina Roma. Ho sentito silenzio assoluto, tolleranze varie all'inizio dell'anno qua e là. Non lo so, forse perché c'è di mezzo la Roma, probabilmente. No, qua non c'è solo di mezzo la Roma, c'è di mezzo anche la Fiorentina, se è per quello. Ci sono di mezzo tutte e due, certamente. Io credo che ci sia di mezzo soprattutto il Ministero dell'Interno e le sue emanazioni, cioè questi due organismi di controllo che sono stati creati e che per un po', ma come sempre accade in Italia, sotto la suggestione iniziale hanno funzionato, adesso mi pare funzionino molto meno. Io credo che non vietare la trasferta dei tifosi romanisti a Firenze sabato sia stato un atto se non supera, perlomeno sfiora seriamente l'irresponsabilità. Scrive Aldo Marinoni da Como per far notare che delle 4 semifinaliste di Coppa Italia 2 hanno perso e 2 hanno pareggiato, è verissimo. Si domanda se non sia stato un problema di stanchezza, certamente sì. Però insomma è anche vero che ci sono rose più attrezzate delle altre, insomma se la Lazio o la Sampdoria patiscono la stanchezza è un conto, se la patisce l'Inter è un altro conto, perché è attrezzata in maniera diversa. L'ha patita indubbiamente anche la Juventus, che però è in una fase negativa, però la Sampdoria era patita fino a un certo punto perché ha avuto la forza comunque di rimontare contro una delle migliori squadre del campionato in assoluto, che è certamente il Cagliari, se parliamo di qualità di gioco, di freschezza, di capacità di improvvisare e di non farsi condizionare a nulla, nemmeno da un 2-0 subito nei primi 20 o 30 minuti, andando addirittura sul 3-2 e poi non riuscendo a chiudere una partita che a quel punto sarebbe stata una grande impresa e avevano in pugno. Ho detto Sampdoria, è indubbio che in ogni caso il campionato genovese è stato particolarmente brillante, indipendentemente dalla flessione. Adesso per il Genoa in particolare, la Sampdoria è andata in finale di Coppa Italia, oltre ad un piazzamento più che onorevole in campionato, dopo qualche addirittura paura nella fase iniziale. Il Genoa adesso deve chiudere, deve provare a capitalizzare quello che di buono ha fatto, e certamente i segnali non sono incoraggianti, perché dopo la sconfitta in casa con la Lazio della scorsa settimana è arrivato, che ci poteva stare perché era il contraccolpo a quella grande vittoria sulla Juve, eccetera eccetera. Queste robe succedono nel calcio, per chi non è abituato all'aria sottile di Vetta. Quella di ieri a Bologna invece è una pessima sconfitta, anche perché due gol così davvero non si possono regalare a nessuno. Lo ha accentato per bene l'allenatore Gasperini, sentiamo. In questo momento siamo molto delusi, molto arrabbiati per la prestazione di oggi. Però devo dire, abbiamo perso un'opportunità importante oggi, perché c'erano le condizioni per continuare a far bene. Evidentemente e qualcosa non è andato per il verso giusto. Abbiamo fatto soprattutto un approccio alla gara veramente brutto, che ha compromesso la partita, e dopo insomma, nonostante le molte occasioni che abbiamo avuto, qualche episodio, non siamo stati più capaci a raddrizzarla. Però devo dire che molte delle responsabilità sono nostre. Oggettivamente sì, ci sono dei numeri abbastanza curiosi e abbastanza impressionanti, per esempio questo, no, numeri statistici sto alludendo. La difesa della Roma nelle ultime 8 partite ha beccato 21 gol, 21 gol fa una media di superiore ai 2 gol e mezzo a partita. La difesa della Roma è tra credo la terza o quarta peggiore del campionato, hanno preso 57 gol il Bologna e il Lecce, 53 la Regina, e a 52 c'è il Torino, cioè sono le quattro squadre che si, tre delle quali andranno giù. A 52 ex aequo col Torino c'è la difesa della Roma. L'altro record di stagione della Roma è che con Pizarro, espulso sabato sera a Firenze, sono saliti a 12 i giocatori espulsi in campionato, e sono due dati credo su cui riflettere molto ma molto seriamente. Claudio ha chiamato da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io chiamo a proposito dell'Inter, sono molto ma molto preoccupato perché praticamente hanno perso, ha fatto due pareggi e una sconfitta, penso sia il trend più negativo di tutto il campionato. Li ho visti malissimo ieri dal punto di vista fisico. Yes. E poi quello che mi spaventa è che anche quando abbiamo perso nel 2002 lo scudetto, nelle ultime cinque partite avevamo la Lazio e l'Atalanta, senza scordare che a Cagliari non vinciamo mai. Dico la verità, sono molto preoccupato, specialmente sentendo Mourinho che tranquillo e sicuro di aver già lo scudetto in tasca. Sì, sì, la credo che io, sentendo Mourinho uno possa anche inquietarsi un po'. Però guardi, facciamo così, le faccio coraggio, non che me ne importi, perché lei sa che quando si parla di Inter, Milan e Juve feeling personale non ne ho. Le leggo il calendario del campionato del Milan per provare a tonificarla. Il Milan va a Catania, riceve la Juve, va a Udine, gioca in casa con la Roma e va a Firenze. Ora, mi pare che abbia una partita facile che è in casa con la Roma, perché la Roma di questo periodo è, a meno che abbia insomma, che si ritrovi in maniera improvvisa, ma direi a questo punto che è altamente improbabile. Sono partite oggettivamente impegnative, quindi è difficile immaginare un filotto, no? di 15 su 15. Questo potrebbe ridare un po' di speranza a lei, non tanto all'Inter, perché all'Inter mi pare che al momento non siano poi così preoccupati. Da Salerno, Sandro, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno. Volevo chiederle lei come considera questo finale di stagione del Milan, che fino a poco tempo fa era stata dichiarata una squadra bollita, senza più insomma gioco, con grandi critiche ad Ancelotti, e ora è al secondo posto dietro l'Inter a 7 punti. E quindi lei come vede questo finale di stagione per il Milan e cosa ritiene abbia stimolato questa reazione dell'ambiente milanista a tutte queste critiche, anche con alla luce degli ultimi risultati ecco positivi? Cosa abbia stimolato non lo so. Evidentemente io penso che ci sia innanzitutto una società più salda rispetto alle due concorrenti, perché sono in atto indubbiamente da tempo un po' di regolamenti di conti, no? in tutte queste società c'è un regolamento di conti abbastanza duro in casa Juve tra la dirigenza che ha sbagliato delle mosse in maniera grave il tecnico, ma una parte considerevole anche della squadra. C'è la questione Ibrahimovic all'Inter, che mi sembra abbastanza evidente e condiziona non solo il rendimento di Ibrahimovic per esempio ieri sera, ma insomma ho l'impressione che bene all'ambiente non lo faccia nemmeno quello. Al Milan si sa che Ancelotti è in uscita, lo si sa da tempo, e anche lì mi pare che non mancherebbero motivi di scollamento, e invece mi pare che il Milan abbia una compattezza da questo punto di vista, o abbia una capacità di gestione che le altre non hanno. Quindi penso che alla base di tutto ci sia quello, perché poi il rendimento adesso è buono, è buono da una serie di partite, alcune di queste non sono state proprio irresistibili, cioè non è che il Milan abbia cambiato marcia, ed è per questo forse lo dico perché ho letto poco fa sull'agenzia un'intervista a Zaccheroni, ed è per questo che potrebbe ricordare in fondo, no, la rimonta di 10 anni fa, perché anche allora il Milan non sembrava avere un passo a cui non si poteva resistere, però la rimonta la centrò ugualmente. Sono passati 10 anni, c'è anche la suggestione degli anni con finale 9. Negli anni con finale 9 il Milan è dal 59 che qualcosa anche di grosso porta a domicilio e porta in bacheca, e quindi queste sono le ragioni un po' suggestive, un po' e un po' meno, per cui ci sta, insomma, teoricamente ci sta ancora questa eventualità. Fabio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione. Niente, volevo intervenire su quello che ha detto l'ascoltatore da Genova per quanto riguarda Ronaldo. Ecco, io non sono d'accordo sul suo parere, perché penso che nonostante Ronaldo abbia dimostrato di essere un vero fenomeno in tante situazioni, però a livello di integrità fisica certamente è stato sfortunato, però un campione penso che si valuti anche negli anni in questi termini, e non penso che si possa annoverare tra i primi campioni degli ultimi 10-15 anni di calcio proprio per questo motivo. Ecco, volevo un suo parere. No, il mio parere è sintonizzato col primo ascoltatore, non con il suo. Io invece un campione lo giudico per quello che è in grado di dare e far vedere sul campo, fino a quando il destino non comincia ad accanirsi su di lui. Poi lì bisogna essere bravi a sapere gestire i recuperi, bisogna avere dei caratteri di ferro, e non so, ricordo Ancelotti che con le ginocchia distrutte il carattere di ferro ce l'aveva, Van Basten non lo ebbe per esempio, però noi non possiamo ridimensionare Van Basten nel firmamento di quello che ha rappresentato solo perché ha finito la carriera giovane a causa quella caviglia. Ronaldo sta sopravvivendo a se stesso. Il fatto che sia ancora oggi in grado, in condizioni appunto da dopo lavoristiche, in grado di fare cose sensazionali, ci aiuta a ricordare che Ronaldo da sano e da giovane ha fatto cose sensazionali che a quella velocità raramente o forse mai si erano viste su un campo di calcio. Questo non lo dimenticherei. Francesco ha chiamato da Pistoia, buongiorno. Francini, buongiorno. Dica. Senta, le volevo chiedere una cosa. Io non capisco come mai nessuno fa riferimento a quello che è successo sabato sera a Firenze. Il pullman della Roma è stato spaccato, il vetro è dietro, e nessuno oggi ne sta parlando. 2 anni fa con la Juve è successo la stessa cosa. Oggi nessuno parla di questo, perché i tifosi della Fiorentina sono santi, sono bravi, sono bellini, sono carini. Poi io vivendo a Pistoia ne sento tante di queste cose. Quindi non capisco come mai, non so cosa dire sinceramente. Perché sabato sera ero a Firenze, scusi se la interrompo, e si sono viste delle scene assurde. Io vado in giro per tutta l'Italia con la sciarpa della Roma, tranquillo, e posso viaggiare dappertutto, in tutti gli stadi sono stato. A Firenze non me lo posso permettere. È per questo che andava vietata la trasferta, Francesco. E non sto dicendo una cosa bella, intendiamoci, sto dicendo una cosa inevitabile. In compenso, lei ammetterà che ci sono tifosi di altre squadre che, se si mettono al collo la loro sciarpa e passano sui ponti vicino al Tevere quando gioca la Roma, forse non gli conviene. Lei è partito da una sottovalutazione grave del problema prima, e di una scarsa informazione soprattutto da parte dell'autorità dopo. Condivido in pieno, ci siamo di nuovo o siamo di nuovo molto vicini a qualcosa di tragico o comunque di molto grave, e non mi pare che ci siano le reazioni adeguate. Questo sì è grave, al di là poi di chi direttamente è coinvolto. È arrivata anche via agenzia la conferma di questo ragazzo della Biellese che è stato operato, Mattia Ferretti. Ripeto, gol decisivo ieri a Sarzana e qualche minuto dopo un gravissimo incidente. La conferma da questa agenzia che è riuscito l'intervento dell'equipe di neurochirurgia dell'ospedale di Galliera di Genova, che ha ridotto questa frattura a un osso del cranio e ha proceduto a un drenaggio per tenere sotto controllo l'ematoma. Ci vorranno confermate 48 ore per sciogliere la prognosi a carico di questo ragazzo di 24 anni. È il momento di ripassare, sì, ripasso di storia, la giornata di... Cosa è successo nel tempo, negli anni, il giorno 27 aprile di Sportivo, Nicola Filippone. Sembra ieri. 27 aprile 1975. A Barcellona, sul circuito del Montjuïc, il Gran Premio di Spagna, quarta prova del Mondiale, si ferma tragicamente dopo 25 giri. La Hill del tedesco Rolf Stommelen piomba in mezzo alla folla, provocando 5 morti e diversi feriti. Si consuma in questo modo un dramma annunciato. Nei giorni precedenti i piloti avevano protestato per la scarsa sicurezza della pista, boicottando le prove del venerdì. L'organizzazione del mondiale, invece di annullare la gara, decide di considerarla chiusa al momento dell'incidente, assegnando la metà del punteggio previsto. Così Lella Lombardi, a bordo di una Marche con motore Ford, si piazza sesta e conquista mezzo punto, diventando la prima donna ad andare a punti nella storia della Formula 1. Però, leggo tra le statistiche di campionato, di giornata, un dato effettivamente abbastanza interessante, che è questo. Insomma, i giocatori italiani hanno imparato a trasformare i rigori, hanno imparato, comunque sono molto migliorati da questo punto di vista, perché su 101 rigori assegnati in questa stagione ne sono stati segnati 85. Percentuale quindi dell'84 e fischia per cento, la percentuale era del 76% un anno fa, quindi allora si sbagliava un rigore su 4, adesso si sbaglia molto ma molto meno, la percentuale esatta non la so fare. Dato interessante, sono diventati più bravi gli attaccanti, sono diventati meno bravi i portieri, io propenderei più per la prima, perché insomma, il rigore in linea di massima è un demerito dell'attaccante non segnarlo più che un merito del portiere pararlo, questo in linea di massima. Oreste Caserta, buongiorno. Buongiorno a voi, dottor Garanzini. Faccio una premessa e faccio un in bocca al lupo al giocatore che è stato operato. Ferretti, Mattia Ferretti, sì. Attaccante della Biellese. Certo, allora, premetto che sono un tifoso del Juve. Lo specchio delle ultime partite è quello di una società e di una squadra con gravi problemi di organizzazione futuribile. Volevo chiedere un piccolo intervento a lei. Secondo lei è finito il tempo di Ranieri alla Juve, premettendo che ha fatto un ottimo lavoro? Io penso di sì, ma non tanto per demerito, quanto perché mi pare che sia diventato difficilissimo adesso difenderlo da parte di chi ha già fatto delle mosse che preludono a futuri diversi. Il calcio non vive di contratti. Se vivesse soltanto di contratti, Ranieri avrebbe questo rapporto fino al 2010 e Blanca avrebbe avuto tutto il diritto di muoversi per progettare un futuro che parte dal 2010. Ora, ufficialmente è così, ma in realtà diventa un po' imbarazzante conoscere una situazione di quel genere. Questo vale per qualsiasi squadra, qualsiasi società. Diceva bene qualche giorno fa Roberto Beccantini quando diceva: ci sarà pure una via di mezzo tra Moggi, che nascondeva persino all'avvocato Agnelli di aver già venduto Zidane, e Blanc che si fa beccare a pranzo con Lippi. Insomma, non credo che per l'appunto una via di mezzo ci sarà pure, ma dal punto di vista dirigenziale molto meglio il primo, dal punto di vista, ho detto, strettamente dirigenziale, perché conoscendo le leggi non scritte del calcio non ci si può sbagliare a farsi trovare in compagnie imbarazzanti dal punto di vista ambientale, ripeto, non che Lippi sia una compagnia imbarazzante, ma in questo momento per una società oltretutto in difficoltà lo è, e da lì è nato un pochino tutto. Se poi si pensa che negli stessi giorni gli stessi dirigenti della Juventus hanno annunciato praticamente, o comunque hanno fatto trapelare, e in questo caso con orgoglio, non più involontariamente, ma quasi con orgoglio, l'operazione Cannavaro, beh, insomma, allora a quel punto fare 2+2 non è diventata un'impresa ed è diventato in compenso un autogol, ma di quelli abbastanza rari. Paolo, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini, buongiorno e complimenti. Le volevo chiedere una cosa, un suo parere. I due falli che ha fatto il giocatore del Palermo su Kakà, erano giusti sanzionarli oppure no? E se erano giusti, perché un presidente si dice che ha perso per i due rigori, giusti o non giusti gli adatti, e per quell'espulsione lì. Io volevo il suo commento a riguardo. Il mio commento è molto semplice. Il presidente non è un presidente, il presidente si chiama Zamparini, e quindi già abbiamo messo a fuoco, credo, una prima parte della vicenda. I due falli che Rizzoli ha sanzionato e sui quali ha ammonito Bovo, cioè lo stesso giocatore espulso per somma di ammonizione, erano sacrosanti, e quindi è giustissima quella decisione. Una squadra che arriva a San Siro, che dopo 10-12 minuti si vede assegnare contro un rigore così imbarazzante a parer mio, beh, insomma, il diritto di prendersela ce l'ha. Allora, il diritto di arrabbiarsi è un conto, il diritto poi invece di fare tutta la sparata successiva fa parte dei diritti di Zapparini, che ormai riteniamo acquisiti da anni. Pierluca da Bari, buongiorno. Buongiorno Garanzini, l'ascolto sempre durante la pausa pranzo. E io ho notato che le squadre italiane che hanno partecipato alla Champions League sono in uno stato precomatoso, sia dal punto di vista fisico che del gioco. Dove volevano arrivare? Volevano vincere la Champions? Con queste squadre mi sembra veramente ardua. Non sarà che nel calcio italiano si gioca troppo fisicamente, poco tecnicamente? Ma io non lo so, Pierluca, di sicuro nel calcio italiano si gioca tanto con la lingua, si gioca tanto a parole, lo dicevo anche nei giorni scorsi, io quando sentivo i proclami della Juventus, i proclami della stessa Inter, che era la volta buona, che era l'anno buono, eccetera, io passando ogni tanto, un sabato, a guardare come giocano all'estero, come giocano le grandi squadre straniere, mi dicevo che secondo me c'era qualche eccesso dialettico per la piazza, no? Per farsi la piazza, che secondo me poi sono degli autogol preventivi, perché tanto poi i nodi al petto ne arrivano, ma ho l'impressione che la sua sia un'osservazione più che fondata. Chiudiamo con Marco che ha chiamato da Verona. Sì, buongiorno. Dica. Ma due considerazioni su Balotelli per chiudere proprio. La prima è che spero che Mourinho continui sulla strada che è, visto che secondo me qualche piccolo miglioramento in senso comportamentale lo si vede di già. Boh. La seconda, credo che un giocatore tecnicamente così preparato come lui, o comunque dotato come lui, subisca delle provocazioni che non sempre vengono dovutamente rimarcate dagli arbitri. Lo si è visto anche ieri sera, dove sistematicamente veniva raddoppiato, se non picchiava il primo picchiava il secondo. Tutto qui. Marco, lei pensa che anche tornando indietro negli anni e anche tornando indietro di molto, un ragazzo molto dotato avesse diritto a sconti? A me non risulta assolutamente. No, non ho detto questo. Allora capisce che tocca a Balotelli sentirsi un privilegiato dal punto di vista tecnico, tattico e di doti della natura, e tocca a lui reagire di conseguenza, come i grandi campioni hanno sempre saputo fare. Lui per adesso proprio non ha idea di come si debba comportare un'ipotesi di campione. Grazie a tutti, grazie a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani, Giornale Radio.